geometrie aperte al limite del possibile, aliti d'alture tali da rendere plausibile aperture alari come roni sullitani, sultani solitari nelle notti sublunari. Ma spunta il sole, siamo neve nel deserto, dopo l'inferno inferto, offerto su un piatto d'argento. Lì ti cerco, otto, è aperto, l'ho coperto col mio tocco esperto. Intanto lotto con le otto, mi accerto, non ci sia un fantasma sotto il letto. Il piede sinistro metto un disco, rovisto nella casba del mio sottotetto, sì. Sotto l'effetto di un sogno despierto, certo, non mi sottometto qua. Spunta il sole, siamo soli, tra stati e voli in Corea soli, anche in eclissi si va. Dietro una luna eccentrica, ma eliocentrica come San Rasa, quel che sarà, mossa va. Al di là del mio cielo cerco un nuovo sole, che dà luce al pensiero e forgia le parole. Sento intorno a me tutte le persone, apro gli occhi e penso a te. Mentre fuori piove, gente non capisce dove sta la retta via. A fretta crede che questa la detterà il messia. Per forza non credo mica alla magia, non mi pento né risento manco avessi un'allergia. C'è chi ama la cultura da paura, quando dormi copre muri di tintura in una notte scura. Per chi odia non c'è soluzione alcuna, voglio sole per un viso pallido come la luna. Tu non tradire, non cambiare direzione, azionamenti ed elementi pronti per la collisione. Porta nelle orecchie della gente il tuo nome, altrove c'è chi muore nel suo bagno di sudore. Io voglio credere che tutto vada bene, cedere non mi si addice, c'ho radici serie, cenere come cornice, facce deleterie, le caccio senza remore in ognuna di ste sere. Al di là del mio cielo cerco un nuovo sole, che dà luce al pensiero e forgia le parole. Sento intorno a me tutte le persone, apro gli occhi e penso a te, mentre fuori piove. Intanto il sole si nasconde, scavalca tutta la città, prepara un'altra fregatura che poi domani porterà. E io che insisto coi bicchieri, cercandone complicità, e do la colpa ai dispiaceri.